cancelli, confini, catene, è nostro, è vostro, è loro, chissà. Ma il cielo è di tutti, e l'aria più pura, è il solo confine che ha la natura, che ha la natura. Ah, ah, ah. Senza